sempre in mano ad altri. E devi dirmi com'è che abbiamo la sensazione di non essere appagati. E il lavoro rende libero, ma la ricompensa passa sempre in mano ad altri. E devi dirmi com'è che abbiamo la sensazione di non essere appagati. Essere appagati, yeah.